296. Lombata di castrato ripiena. Prendete un pezzo di lombata di castrato col suo pannicolo attaccato, del peso di un chilogrammo, digrassatela ma non del tutto, disossatela e conditela con sale e pepe, formate il composto per riempirla con magro di vitella di latte grammi 150, prosciutto grasso e magro grammi 50, parmigiano grattato grammi 40, un uovo, sale e pepe. Tritatelo ben fine e dopo aver spalmata con questo tutta la lombata nell'interno, arrocchiatela tirandole sopra il pannicolo e cucitela onde non sbuzzi il ripieno. Ora mettetela al fuoco con grammi 50 di burro e quando sarà arrosolata bagnatela con un dito di bicchiere di marsala. Poi gettate nella cacciaruola a crogiolare con lei a fuoco lento mezza cipolla piuttosto piccola tagliata in due pezzi, due o tre pezzi di sedano, altrettanti di una carota e dei gambi di prezzemolo, bagnandola con acqua o brodo per tirarla a cottura. Infine passate il sugo e il resto, digrassatelo e servitela. È un piatto che potrebbe stare per 8 persone e merita di essere raccomandato. Già sapete che per digrassare un sugo basta posargli sopra qualche pezzo di carta straccia sugante.